questa io sia in ricezione che in trasmissione è un po' variata, però io in ricezione la sento meglio, la verità te lo dico. Io ho fatto la comparazione quando era a posto quella là, tra questa e questa è un abisso. Sì, infatti era fatto, il vecchio modello era fatto meglio, era fatto meglio, poi hanno cambiato il progetto alla LEM e come sempre hanno peggiorato le cose, non solo, hanno peggiorato anche i materiali, li hanno peggiorati i materiali. Ok, io rilancio per il profeta, vai. Claudio, vai tu. Sì, sì, siamo qua, ancora per un po', poi mi allontano per andare a mangiare la pappa. Vabbè, ancora non è pronto, mia figlia non è rientrata, quindi va bene così. Ok, ti volevo dire Marco, va bene anche per te la modulazione qua del 140? Benissimo, te l'ho detto, tu la tua voce con il K è la migliore rispetto anche a tutti gli altri apparati, rispetto al DAC, rispetto a tutti gli altri, questa è la migliore, che poi sia il 140 o l'altro è buona lo stesso. L'ho regolata perché era troppo alta, era sotto la C, non bettolina con 140, ma sono fatto per me, era sotto la C, adesso ce l'ho sotto la I, praticamente a metà mi chiede. La differenza del 430 magari spinge un po' appena appena meno, però è meno rimbombante, meno fastidiosa, va bene così. Avanti Gianni lo profeta, se non riprendi tu, bombolino. Eia, dai ragazzi, salutoni a tutta la ruota, io vado a fare la carica. Vado a Vappai e niente, dai, ci aggiorniamo, grazie per la chiacchierata e a più tardi. Ok, bye bye. Ciao Gia, ciao, alle prossimine, buon pranzo, vai Anton. Kappa, ciao Gia, ce la risentiamo alle prossimine, ciao ciao. Ciao Gianni, buona mangiata, ciao ciao, ci sentiamo. Comunque Claudio, mi ricordo quando avevo fatto il video del terrazzo qua, dove c'è l'antenna, no? Verso la direzione tua, all'orizzonte proprio dove ci sono le colline più alte di Sassari, si vedono nella ripresa delle piccole torrette, no, all'orizzonte. Quelli io sono sicuro che sono i palazzi di Carbonazzi, tra cui il tuo. Ecco perché noi ci sentiamo così bene di segnale. Perché l'antenna è otticamente, la mia antenna vede la tua, in poche parole. Non so se Antonio l'ha notato col video del terrazzo, Antonio. L'ha vista la panoramica? Sì, sì, sì, ho visto. È bello, sì. Lì si è molto più aperto, sì. Non c'è nessuno che liscio batte il Marco, né dalla Terra Voce, né da Via Grazia Veredda, né dalla zona di Gianni, nessuno. Io c'ho a Roberto Quadratto, che è qualche punto più di Antonello. Roberto Antonello Marco. A parte, vabbè, ma Fabrizio entra pochissimo, anche lui c'ha un segnalone altissimo qua. Però di quelli che mudano Marco è il terzo, nonostante sia distante rispetto a Roberto e a Antonello, capito? Sì, diciamo il contrario Marco, è la mia antenna che vede la tua, perché io essendo più in alto la vedo, io vedo tutto Sassari, ce l'ha visto Luca, cioè siete proprio tutti sotto, non c'è nessuno più alto di qua, capito? E quindi l'antenna già è all'altezza del palazzo, più c'è 6 metri di tubo rispetto a prima che ne aveva 2, sono 4 metri in più, e quindi è molto, molto visibile, è molto aperta adesso, capito? A me vedi? Ecco Tatalì, 9:20, sì, la mazza. Allora, bravo Tatalì. No, non passi mia tu. Sono convinto, manco attaccato riesce a passarlo. 9:20 con 3 watt Natalino, cazzo. Vedi, Natalino con quell'antenna, se fosse leggermente più alta, avrebbe un segnalone Natalino, un segnalone. Io mi ricordo io più, ma quando era lì in Corso Vicco, in Corso Trinità, minchia cazzo, rompeva così le balle. Aga. Ehi, attacca. Parlate tu e Natalino, lo dico io si passi. Attenzione, mi senti cazzo? Dai, giudizio. Non lo faccio tanto, abito a bacio un biuvaro, un carino, non lo faccio. Stato a me, a me, a che figlio l'altro lineare, e te lo faccio schiattare, ti faccio. Senti, che sta, bubo? Alzi, faccio schiattare questi giorni. Aspetta quando ho i soldi che ritiro l'altro amplificatore. Il 500 te lo do io. Io non ho amplificatore. Dì che ci giochi l'antenna tu. Il giorno che fate tirare Antonio, le porto il lineare e quello a valvole e facciamo, pieghiamo l'antenna, Anto, come schiacci la portante, si piega l'antenna, si scioglie e la facciamo direttiva. L'antenna non si scioglie, è il capo che si scioglie. Il nuovo gioco, quanti watt tiene con l'antenna, Marco? Dimmi, quanti watt tiene la Ringo? Non lo so, un kilowatt sarà. Però il capo no, lui c'ha il capo sottile, dovrebbe cambiare il capo. Vabbè, Antonio, se vuoi il capo io metto cosa deve fare. Non è cosa deve fare, ce l'ho già pronto. Io ho detto, devi buttare un lucernaio, far entrare il capo senza il PL e portarselo dentro, ok? In modo che chiuda il lucernaio. Poi quando domani se ne vada lì, ci sono gli stucchi per legno, spucca bene il buco, le dava carteggiata, una verniciata, non si vede nulla. Lo so, cosa. Natali, ma forse è più aperto per Claudio, più si è più aperto di me. E ti sono entrato 30 russo, vai, non ammara, vai. Vabbè, tanto, dai, va bene così. Oh raga, io vi saluto, devo andare a mangiare il cane e poi mangiare anch'io. Grazie delle due chiacchiere, dei controlli, delle prove, di tutto, buon pranzo a tutti, Antonio, Natalino, Marco, Gianni Rubofretto, a tutti quelli che sono qua, dai. A stasera se coincide ragazzi, buon pranzo a tutti, ciao ciao. Ciao Claudio, ce la risentiamo, ciao ciao, avanti io, oh Marco. Eia, buon pranzo Claudio, buon tutto e ci sentiamo, ok? Sento odore di caffè qua, o cos'è? Boh. A quest'ora mi pare strano, adesso controllo. E quindi hai visto comunque, io c'ho libero il sud, poi l'est, c'è la zona di, no scusa, ovest, tutta la zona di Alghero, Stintino, e l'antenna vede la zona industriale di Porto Torres, no? Perché è più in alto, però Porto Torres città comincia a essere chiusa dai palazzi di via Savoia. Poi si è visto, tutti quei palazzi alti sono via Savoia, via Pronizzeta, via Gorizia, via Luna e Sole, lì sono tutto chiuso. Vabbè, comunque passi lo stesso, non è che non c'è problema. Però è un peccato, perché io la zona chiusa, praticamente il continente italiano, è proprio quello che interessa a me, anziché avere portata ottica. Per esempio la Spagna è oltre il mare ed è otticamente libera, e invece proprio l'Italia ce l'ho più coperta. Sì, poi il segnale passa con la propagazione, però è un peccato. C'ho Sorso tutta coperta, Sellioni, tutta quella zona lì, tutto coperto. C'ho Alghero libera, te l'ho detto, però non stanno entrando più come una volta in 27. Se no Valerio arrivava a 9, mi collinearetto arrivava a 9 a Sassari, a me. Capa, poco fa è entrato uno basso basso, non ho capito chi era. Proviamo a vedere, chi è che vuole entrare avanti? Adesso no, poco fa. No, non l'ho sentito qua, io conta, chiuso sempre un po' di squelch, quindi non... per togliere il leggero soffio di fondo, dai. Capa. Vabbè, io mi sa che sono più forte nella zona alta. Forse è un po' a Porto Torres, penso che non abbia problemi. Nella zona di giù, non lo so, c'ho qualche attacco a Sorso, però non arrivo male, arrivo forte quanto quelli che arrivano con la Mantova pure, perché c'è una persona chiusa come me e io arrivo 5 quanto arriva lui. Liscio parlo. Yeah. Io qua naturalmente non tengo nulla, cioè non lascio mai il lineare installato, io sono sempre apparecchio omologato e dice Vittorino vicino, e boh, solo ogni tanto lo disotterro, lo provo e poi lo levo, però qua deve essere omologata la stazione in caso di improbabili controlli. Come la funziona da me? Cioè già, no, ma già lo tolgo quando non, se non mi serve lo tolgo. Adesso perché mi va a tenerlo acceso, mi va per vedere un po', per farlo andare. Sì, anche perché la roba va usata, se la lasci ferma tanti mesi poi comincia, o anni peggio, comincia a non funzionare bene la roba. Quindi i baracchini anche a rotazione bisogna usare. Stamattina c'era un po' di sole, porca miseria, adesso si sta già coprendo, mi pare. È sparito il sole qua. Natalia, ci sei ancora? Ehi, boh, una posizione un po' strana, chissà, ragazzi. Sicuramente sono stato su, in Piazza Colonna Mariana, in quel palazzone alto, guai. Hai sotterrato tutte, cioè, sarei stato fortissimo, sarei arrivato. Dove Piazza Colonna Mariana? Ah, sì, dove c'era il comune una volta. C'è un palazzone, c'è la Boninchivi guai, perché lì è molto alto, quel palazzo alto, lì è alto, un bel, lì pompa, pompa un bel. Ah, cazzo, cazzo, è rubus, vabbè. Ho trovato questa di casa, ecco dove voglio andare, mi c'è un nome della zia. No, infatti, anch'io mi devo accontentare, non è che posso cambiare casa in funzione del baracchino, ma ci mancherebbe, ognuno c'ha la posizione che c'ha. Infatti io scherzo, mi antopano, ti dico, allo grebo, capirai. Invece mi sarebbe piaciuto provare con qualche stazione di stintino, però stintino non c'è nessuno. Invece se uno si mettesse in barra mobile sul lungomare di Stintino, proprio fronte mare, sarebbe portata ottica con la mia antenna, sarebbe interessante vedere se e quanto arriva. Lì è portata completamente ottica, proprio non c'è alcun ostacolo. E che con chi le fai le prove? Non vedici uno a Stintino. Pazienza. Vediamo se qualcuno c'è lì, vediamo se ci sente, ma io penso che non ci sia nessun tipo di problema, cioè ci sentiranno anche a Stintino. Io penso che arrivo pure io, non tanto forte, ma arrivo pure io, non penso che non ci siano problemi. È da provare, Stintino è più lontano anche di Alghero, e portata ottica non so quanti chilometri siano, saranno 45, non lo so, dovrei misurare. Ottica dico sempre, no? Sì, sicuramente è così. Va bene, dai, io adesso ti devo lasciare, ci sentiamo più tardi, ok? Ok, ciao Anto, buon pranzo. E voi mangiate tutti adesso, io manco fame ho, quindi buon pranzo, ci sentiamo, ciao a tutti. Ciao, io ho già mangiato, ciao, ci sentiamo. Ok, devo andare a fare delle cosette, ciao.